Io devo dire, è realmente bello vederci, vedervi, perché questo vuol dire, essendo qui anche con il freddo che è calato immediatamente, vuol dire che siete innamorati di Gesù, di più di me, gloria a Dio. E questa è la cosa più bella, anzi questo è proprio quello a cui voglio incitare ognuno di noi, a innamorarci della parola, innamorarci della parola. Lo segui? A fasi alternante, è vero? Come a me, una volta di più, una volta di meno, ma noi dobbiamo veramente incentivarci, incoraggiarci a innamorarci della parola. E come ci si innamora? Sentite, non il colpo di fulmine, perché quello dura quanto il colpo di fulmine, va bene? Ma frequentando, leggendo, adoperando la parola, usandola in tutto quello che facciamo, come Gesù. Gesù, perché questo è il tema, come Gesù. E Gesù la usava sempre, in maniera molto semplice, anzi non se ne accorgevano nemmeno che stava usando la parola, di Dio. Per esempio, con l'esempio più eclatante, più importante forse è la tentazione. Come ha vinto il diavolo? Vi ricordate? Sta scritto, ogni volta sta scritto. Il diavolo l'attaccava pure, è scritto, ma è altresì scritto. È incredibile. Così ha vinto. Ha vinto la tentazione delle infermità, la fame, quelle cose. Ha vinto la tentazione del potere. Ha vinto tutte le tentazioni, ha vinto ogni attacco che ha ricevuto tramite il nominare la parola. Nomina la parola, non a sproposito in tutte le cose, ma quando vedi l'opportunità fallo, perché questo sana e guarisce. Insomma, noi dobbiamo realmente imparare a coinvolgere la parola di Dio nella nostra vita. Deve vivere con noi, con le nostre situazioni, la dobbiamo aggrovigliare, la dobbiamo intrecciare con quello che viviamo, e là poi noi vediamo le vittorie. Insomma, questo è proprio quello che il Signore chiede a noi, e il soggetto di questa mattina è quello che Gesù ci chiede. Quando già ho fatto già le altre volte, ma va bene, io non pretendo che non me lo ricordo nemmeno io, come faccio a pretenderlo da voi, va bene, ma abbiamo parlato di Gesù, che in un qualche modo lui le attività che svolgeva, annunziava la parola, per esempio, ecco. Poi abbiamo anche visto quello che Gesù sentiva nel suo cuore, e l'abbiamo visto proprio tramite le risposte che lui dava. Questa mattina andiamo a vedere che cosa chiede a te e a me. Non vi allarmate, Gesù chiede cose molto semplici ed elementari proprio intorno alla prima. La prima la leggiamo in Matteo. Aspetta, prima che lo proiettiamo, Matteo 11:29, non l'andate a cercare, è già proiettato, ho detto prima che lo proiettiamo, va bene, è andato più veloce, va bene, Sara, facciamo un applauso a Sara, è così bello il servizio. Allora, ormai l'hanno visto, leggiamolo, Matteo 11:29 dice: prendete su voi il mio giogo e imparate da me, imparate da me. Fate come me, dice Gesù, molto semplice, fate come me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Non è incredibile, io sono tanto innamorato di questa parola, per me la nomino sempre, imparate da me, fate come me, umile e mansueto, nell'umiltà e nella mansuetudine c'è il riposo, cioè la vittoria, il riposo è la pace, il riposo è il vivere bene, ma il segreto è, e torniamo, umiltà e mansuetudine. Lì c'è, perché riposo è la guarigione. Quando sei sereno e pacifico, ti senti anche meglio, anche degli acciacchi del nostro fisico. Lì troviamo la soluzione. Questa è la vittoria che Gesù dà. Questo è il miracolo. Cioè noi cerchiamo sempre il miracolo, anche una piccola, anche se hai perso un ago, noi preghiamo al Signore, Signore, fai il miracolo che io lo trovo. E il Signore ti dice, acuzza gli occhi, va bene? E cercalo, cercalo, cercalo. Il miracolo è nell'attuare proprio queste cose, perché noi abbiamo bisogno di rinnovare, cambiare noi stesse, di avere miracoli nella nostra vita, perché subiamo tanto dentro di noi e intorno a noi. C'è chi subisce rigetto sul posto di lavoro o nella famiglia, non viene valorizzato al meglio, non è per niente nemmeno, preso in considerazione. E tutto questo non solo crea, e voi lo sapete meglio di me perché le vivete, crea sofferenza dentro, non solo questo, ma addirittura va ancora più profondo, crea un'indole dentro di noi, crea un modo di pensare e un modo di sentire le cose, ma completamente storto, completamente fuori da quello che è l'equilibrio della parola di Dio. Facciamo come Gesù, praticando mansuetudine. Ora, non è la mansuetudine, non è qualcosa che è innata, si acquisisce. E Gesù ha detto proprio, imparate da me. Quindi la mansuetudine e l'umiltà è qualcosa che si impara nelle situazioni, attraverso le situazioni, come ha fatto Gesù, anche in maniera molto semplice. Per esempio, noi possiamo prendere alcuni esempi. C'era chi lo rigettava completamente. Lui andava, si affaticava a predicare per salvare la gente e fare, e poi viene un gruppo di persone e dice, toh, ma quello non è il figlio del falegname? Che vuol dire questo? Proprio dice, senza valore. Non si è fatto prendere Gesù. Oppure c'era quello che diceva, ma che può venire di buono da Nazareth? Ma ti rendi conto? Che può venire di buono da Modugno? O dal paese dove siamo? E questo è proprio rigettare, rifiutare, annullare. Che cosa può venire? Gesù non si è fatto toccare. Gesù non si è fatto toccare da questo. Ha praticato l'umiltà e la mansuetudine in queste situazioni. Lo vediamo anche quando quello è bello, un gruppo di persone, va bene, tu dici, tu fai, tu sei tutto, me. Fammi un segno adesso che vedo io. Gesù ha fatto il segno? Ha detto, Giona, l'unico segno che avrai è quello di Giona, cioè la morte e la resurrezione del nostro Signore Gesù. Vedete? Non si è fatto intaccare. Perché? Perché dentro di lui, invece di reagire a tono, e Gesù aveva le risposte buone, parliamoci chiaro, non come me e te, lui aveva da reagire in maniera forte e poteva fare, anzi addirittura Giacomo e Giovanna dice, Signore, vuoi che facciamo piovere dal cielo, carboni ardente, fuoco e ogni altra cosa. C'era questo potere in Gesù, ma lui ha praticato e ha messo in opera la mansuetudine e l'umiltà proprio in quelle occasioni. Quando viene attaccato e veniamo attaccati da queste situazioni di non accettazione, di rifiuto o di tu non conti niente e così via dicendo, invece di subire il danno e vivere la sofferenza, in quel caso mostra umiltà e mansuetudine, guarisce te e ammutolisce l'altro. È incredibile, perciò il Signore dice qui è il miracolo, in queste attività. Se gli altri, vedi, non credono in te, Gesù ha detto, Gesù crede in te, Gesù crede in me. Gesù ha detto, vabbè, vivi queste cose. Nel verso precedente dice, venite a me, ed io vi darò riposo, ed io vi darò ogni cosa che serve. Imparare ad andare da Gesù quando ti senti attaccato, quando ti senti svalutato, quando vedi che gli altri sono contro di te, allora impariamo ad andare a Gesù. E non ci vuole niente, questa è un'attività che puoi svolgere in qualsiasi luogo e in qualsiasi situazione di segni. Invece di reagire subito, invece di dare la risposta subito, invece di fare e dire, vai a Gesù, rivolgi i tuoi pensieri a Lui e chiedi, Signore, che cosa devo fare adesso? E dice, Signore, vuoi che lo mandiamo fuoco? No. No, l'umiltà guarisce, pratica umiltà. Ecco, c'è un detto che noi abbiamo, dice, l'umiltà precede la gloria. Voi sapete da dove viene questo detto che noi abbiamo comunemente? Semplicemente da Proverbi 29, credo, verso 23. Fatemelo vedere che con questi numeri il pastore mi ha sgammato la settimana scorsa. Con i numeri. Sì, Proverbi 29, verso 23. Dice che l'umiltà è quello che costruisce proprio la gloria. E la gloria è vittoria, e la gloria è guarigione, e la gloria è ogni cosa di cui noi abbiamo bisogno. Quella è la gloria. Ma questo passo ve lo voglio leggere. Io, anche quel Proverbi, per me, lo diciamo fra noi, è il libro dei libri. È il libro che devi leggere ogni giorno. È un capitolo al giorno ci metti un mese, un verso ogni giorno ci metti un tantino di più, anche un verso di Proverbi basta e avanza per meditare e per riflettere sopra. Ascoltate quello che dice Proverbi 15 verso 1 e vedete se non è la realtà. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Nemmeno la parola, basta già un gesto e l'altro si accende. Mentre vedi l'insegnamento usare la parola per te stesso. La risposta dolce, ingoia tante volte, io dico almeno fino a 10 volte, no? Finché ti rimane la bocca secca e non hai modo di parlare. La parola dolce, questa è la mansuetudine, questa è l'umiltà. Addirittura, c'è un passo che esagera proprio, dice, mo è esagerato. Questo si trova in Filippesi al capitolo 2, verso 3. Credo che l'ho fatto mettere, è vero. Vedete, esagera proprio, è esagerata la parola. Dice, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, ognuno di noi, con umiltà, stimi gli altri superiore a se stesso. Ehi, se quello mo appena mi ha mandato e io lo devo stimare al punto tale da ritenerlo superiore a me. Fai questo esercizio dentro. Fai questo esercizio dentro. Mo come si ritiene superiore l'altro a te, non lo so, io lo faccio benedicendo l'altro. Signore, ti ringrazio, probabilmente sta attraversando un periodo brutto. Benedicilo, metti la calma dentro di lui. Forse non verrà in lui, ma verrà in me. E questo è il segreto. Gesù dice, è un altro aspetto, Gesù dice, vieni a me, l'abbiamo già detto, no? Vieni a me. Prima di andare in bestia, come diciamo a noi, vai a Gesù, con i pensieri, con i sentimenti, è molto semplice, la parola di Dio è talmente semplice che non la prendiamo in considerazione, non viene presa in considerazione perché è molto semplice, però è vita, però ci permette di vincere e di superare tutte le cose che noi affrontiamo, frequenta la parola, l'abbiamo già detto, frequenta la parola, prendila in considerazione. Ora io voglio un esercizio da parte nostra, a casa, vi do un esercizio a casa, va bene? Quando ero piccolo io, ci educavano, e quelli più grandi anche forse, ci educavano a fare i fioretti. Per chi si ricorda, che erano delle buone azioni prima che finiva la giornata. Allora io ti assegno di fare un fioretto oggi, prima che finisce la giornata, verso tua moglie, tuo marito o qualsiasi altro. Mo chiedo, quanti lo faranno? E che è il leopardo. Forse non mi sono spiegato bene, questo è il punto. Non mi sono spiegato. Devi fare una buona azione verso tuo marito, tua moglie, anche piccolina, va bene? Anche piccolina. ma la devi compiere prima che finisce la giornata. Quanti lo faranno? Io non mi fermo fino a quando non vedo tutte le mani alzate, va bene? Facciamolo. Portatelo a casa e vedi quanto beneficio devi vedere per fare quella piccola azione, ma anche piccolissima, ma anche cosa che non sei abituata, passare il bicchiere, che ne so io, una cosa stupida, quanto ti costa dentro. Devi andare contro te stesso proprio per fare quella piccola azione. E questo mostra come la mansuetudine e come l'umiltà veramente dà ogni vittoria. Un'altra, passiamo al secondo aspetto. Non dipende da me, è il tempo che va veloce, va bene? Matteo capitolo 26, verso 38. Vediamo il secondo aspetto di come Gesù. Allora, di quello che Gesù chiede a noi. Vedete che cosa ci chiede qui? È incredibile. Allora disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. Che cosa ci sta chiedendo il Signore? Di pregare, sì, ma qui è qualcosa di molto, molto particolare, fratelli e sorelle. Gesù sta dicendo, pregate con me. Non sta dicendo pregate a me. Qui non sta dicendo venite a me a piangere, io sono la spalla forte a lamentarvi. No, dice pregare con Gesù è una preghiera di vittoria, il pregare con, è pregare con autorità, possiamo dire, la preghiera con, anzi se lo vogliamo dire così com'è nel passo, la preghiera con Gesù è la preghiera di guardare alla volontà di Dio e non a quello che io desidero. Perché subito dopo, voi lo sapete, Gesù ha detto se è possibile e stava attraversando qualcosa di non poco, doveva andare alla croce e lo sapeva già prima. Tu immagini, Gesù lo sapeva già prima che doveva subire questo e nonostante fa pure quella preghiera e dice lo sai? E Gesù prega, se è possibile, allontana da me questo calice, ma non la mia volontà, la tua sia fatta, la tua volontà. Vedi, pregare con Gesù vuol dire guardare a quella che è la volontà di Dio per noi in ogni situazione che viviamo, perché non è buono e non è giusto molte volte quello che io desidero e quello a cui io aspiro. Gesù lo sa quello che è meglio per me. Gesù sa quello che è buono per me. Ed è per questo che io devo pregare una preghiera coraggiosa, cioè è una preghiera che proclama la parola di Dio nella situazione, proclama la parola di Dio nella situazione, confessa la parola di Dio. Se hai una lista di preghiere nella tua vita, è buono, falla la lista, falla, la puoi allungare quante vuoi, però a ogni punto di quella lista non devi stare a piangerti addosso e a chiedere e a invocare e a fare, a dire continuamente. Proclama la parola di Dio su quel punto. Se il punto è la sofferenza fisica, che c'è una infermità, proclama la parola di Dio, come è scritto, e sono le nostre lividure, sono le nostre malattie che Gesù ha portato sulla croce. E Lui ha vinto per me, e Lui ha vinto per me. E allora la vittoria mi spetta, e anche quando non viene nel tempo e nel momento, e anche quando non venisse proprio, io rimango a confessare quella parola. Perciò in ogni, questa è la parola. Adesso io vorrei fare anche un'altra cosa insieme, il tempo ce lo permette ancora, di un canto. È una parola di fede e noi vogliamo leggere un passo. Leggiamolo, lo so che lo conosciamo, io prendo tutti i versi che noi conosciamo bene. In Ebrei al capitolo 11, vieni, vieni Lautaro, non ti piegare, tanto sei tu, non è che ti puoi accorciare e io nemmeno mi posso allungare. Ascoltate bene, or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questa è la preghiera che noi dobbiamo ricercare, questa è la preghiera con Gesù, questa è la preghiera con Gesù. Credere già prima. C'è un canto, io vorrei dare onore e lode a Lautaro, perché è un canto nuovo che ha dovuto imparare. Per lui è nuovo, a noi è vecchio. Per lui è nuovo, l'ha dovuto imparare, esercitarsi in questi giorni per insegnarlo a noi. Se viene, verrà proiettato, ci alziamo in piedi, non termina qui il messaggio, va bene, e lo cantiamo insieme. Vedete, proclama queste parole. So che il Redentore vive, Gesù vive. Io so che il Redentore vive, Gesù vive. Perché Egli vive, vivo anch'io. Perché Egli vive, vive anch'io. Io so che il Redentore vive, Gesù vive. Io so che Egli morì per me, morì per me. Io so che Egli morì per me, morì per me. Perché morì, morì anch'io. Perché morì, morì anch'io. Io so che Egli morì per me, morì per me. Io so che anche vinse la morte, amén. Io so che anche la morte vinse, vinse per me. Perché vinse, vinse anch'io. Questo è. Perché gli vinse, vinse anch'io. Io so che gli vinse la morte, vinse per me. Forza, ultima. Io so che Egli ritornerà, Gesù ritornerà. Io so che Egli ritornerà, Gesù ritornerà. Per prendermi e portarmi via. Per prendermi e portarmi via. Io so che Lui ritornerà, Gesù ritornerà. Accomodiamoci, grazie Lautaro. Io voglio dire, vedete, il ministero del nostro gruppo Lode e Adorazione ci fanno pregare cantando, ci fanno proclamare cantando, ci fanno inneggiare cantando. E questo era il modo prima dei nostri antenati di imparare le cose. Insegnavano delle filastrocche e si tramandavano il sapere. Allora canta, io ho voluto cantare questa canzone, però vi devo dire il vero, non me la ricordavo per niente. Io mi ricordavo solo una frase che continuo a ripetere ogni volta dentro di me. Perché Egli vinse, vinco anch'io. E questo io ripeto continuamente. Ho dato queste parole poi e hanno trovato il canto. Che bello! Speriamo che lo cantiamo di più, è vero? Bene, vogliamo adesso andare verso la conclusione, però un altro punto, ma molto breve lo farò, voglio dire semplicemente, se vuoi imparare a pregare con Gesù, leggi, studia e medita Giovanni capitolo 17, la cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù. Lì è Gesù che ha pregato e là puoi vedere come Gesù pregava e come si rivolgeva al Padre. Però l'ultimo punto è Matteo 8, 22. Veloce, perché il tempo corre. Dice, ma Gesù gli disse, seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti. Mo, che cosa vuol dire lascia i morti? Non credo che i morti possano seppellire i morti, sono morti, ma ha un senso che Gesù ha voluto dare a noi. Lascia quelli che rincorrono le cose che non servono, lascia quelli che vanno dietro a cose che non producono niente, lasciali stare, ma tu seguimi. Seguimi, questo è quello che Gesù chiede a noi, tu seguimi, che poi tradotto, detto in altra maniera, significa quando noi diciamo, ecco, lo possiamo comprendere anche dal termine, se io vi dicessi adesso, ma mi state seguendo? Che cosa ho voluto dire? State sentendo, state ascoltando, state memorizzando, state imparando, state prendendo? Beh, insomma, qualcuno, sì, buono, buono. Sì, oppure seguimi e vieni con me, vieni dietro a me, vieni, andiamo a un altro posto. Questo è il significato di seguimi. Quindi Gesù sta chiedendo di servirlo. Ora, in questi mesi, in questo mese abbiamo visto anche la settimana scorsa ampliamente che cosa vuol dire servire il Signore. Servire il Signore, prendendo l'esempio dai discepoli, quando Gesù li ha chiamati, è scritto che loro, lasciato prontamente le reti, lo seguirono. Velocemente, come dire, prontamente, immediatamente, sul posto, sulla cosa stessa, lo seguirono. Questo vuol dire, per quanto è importante quello che stai facendo, che può essere la cosa più nobile e più bella, rimane più importante seguire Gesù. Rimane più importante il suo servizio di quello che tu stai facendo. Non ho tempo. Servire Gesù è più importante, è il lavoro, servire Gesù è più importante, è la famiglia, servire Gesù è più importante perché il servire Gesù porta il beneficio a tutte queste cose, ti dà la forza e l'intelligenza per vivere la famiglia, per vivere il lavoro e ogni altra cosa, servendo il Signore. È bello vedere l'esempio di come lo hanno fatto i nostri Giulia, Marta, Priscilla, che è stata in mezzo a noi. Certo, è molto bello, però dice, ma allora noi dobbiamo fare come tutti quanti, dobbiamo andare in un'altra nazione? Assolutamente no. quello che il Signore ha chiesto a te, quello è importante. Se ti ha chiesto di far parte della Servolution o dei bambini, quello è il servizio che cambia la vita a tante persone. Sembra incredibile, puoi dire ma sono sciocchezze, sono piccole cose, sono cose stupide. Non è vero. Non è vero, perché una piccola cosa nelle mani del Signore diventa una grande vittoria. Vi ricordate la storia di Gedeone? Gedeone si nascondeva per battere il grano, perché i Madianiti, questo popolo che era uno dei figli di Abramo, li perseguitava e arrivava proprio nel momento non della mietitura che dovevi lavorare, ma nel momento della battitura del grano. Il grano era già pronto allora e lo prendevano e portavano via. Gedeone si nascondeva dietro le rocce, dietro i cunicoli, per battere il grano e non farselo rubare. Era stanco di questo e invocò il Signore: ma tu sei il Signore che ha aperto il Mar Rosso, che ha liberato, che ha dato a Mosè, e che così è, come mai adesso non succede proprio questo? Sai, il Signore ha ascoltato questa preghiera, il Signore ascolta le tue preghiere anche quando sono fatto così così. Il Signore le ascolta, il Signore le ascolta, ed si è presentato a lui e gli ha detto: va bene, ok, ora tu andrai a liberare il popolo. Qual fu la risposta di Gedeone? La conoscete la storia? Sì, andatela a leggere, Giudici 6. La risposta fu: sono della tribù di Manesse. Già vuol dire che era una mezza tribù, non era nemmeno una tribù quella di Manasse. La mia famiglia è un nucleo piccolo piccolo che non conta proprio niente nella mia tribù. E io, per giunta, sono il più piccolo di tutta la famiglia. Che ti puoi aspettare da me? Sapete quale fu la risposta del Signore a Gedeone? Va con questa tua forza. E dove? Mo appena di confessare che non aveva né forza, né mezzi, né modi, dice: va con questa tua forza. La forza era la preghiera che aveva fatto. E poi il Signore aggiunge e dice: non ti ho detto, non sono io con te? E se te l'ho detto io, riuscirai. Se te l'ho detto io, riuscirai. Allora non guardare, il Signore crede al tuo microscopico dono, va bene? Ci crede tanto, e questo dono può crescere fino veramente a diventare un mezzo di liberazione per tanti, come per Gedeone. Non sottovalutare quello che il Signore ti ha chiesto di fare, non lo sminuire. Per qualsiasi servizio, è quello, è l'arma di Dio nelle tue mani per vincere e per raggiungere quello che è l'obiettivo di Dio. Perciò io voglio dire a tutti quanti noi, a terminare: non ti accontentare per piacere di venire e di frequentare i culti. Non ti accontentare di frequentare solo i culti, perché quelli, frequentando i culti, come state adesso? Oltre che bene, qual è la posizione? Seduti. Quello fa sedere e porta una certa religiosità nella vita. È servire che fa la differenza. Dice: ma giustamente molti di noi, diversi di noi, diranno: ma io non posso, sono acciaccato. Ed è giusto, ma io non posso, sono lontano, ma io non posso, sono troppo impegnato. Ed è giusto ed è vero, non è che dobbiamo andare contro. Allora c'è un servire adatto per te, far parte degli intercessori. Far parte degli intercessori, sei già iscritto a quella cosa, fa parte degli intercessori, vuol dire che ricevi a casa, mentre stai seduto, mentre stai così, una notizia di pregare per uno o per l'altro, e tu mentre stai facendo i servizi, ma anche mentre stai svolgendo un'attività, puoi pregare. Questo è il servizio più importante nella Chiesa e per il Signore. Di questo possiamo fare tutti parte. Servire il Signore è la cosa più importante per noi, che ci attiva e permette la vita del Signore penetrare in ognuno di noi, cambiare tante situazioni. Perciò non è il tipo di servizio che fai, non fa niente se stai predicando o se stai facendo qualsiasi altra cosa, non ha importanza, importante è che fai quello che il Signore ti chiede. Ho finito? Lo farai? Rispondi dentro al tuo cuore, rispondi dentro al tuo cuore. Io cercherò un servizio adatto. Beh, questa la devo dire e finiamo, dai. Con alcuni ci siamo inventati un nuovo servizio. Abbiamo fatto, la chat e l'abbiamo chiamata... ecco, c'è Alberto, almeno c'è un rappresentante. L'abbiamo chiamata, come l'abbiamo chiamata? Gli instancabili. Da Isaia 40, verso 43, dove dice si alzeranno come aquile, correranno e non si stancheranno. E così. E noi, e questa è la chat dei pensionati, va bene? Questi sono tutti pensionati, quelli che abbiamo messo, e ci andiamo a fare la passeggiata al rifugio, facciamo qualche lavoretto per rimanere attivi e non addormentarci. È molto bello. È vero, Alberto? Sì, almeno uno. Questo è anche bello. Se non ti viene, e con questo termino e preghiamo, se non ti viene offerto di svolgere un servizio chiesto, se tu non vedi nessun servizio di cui puoi far parte, allora io dico solo una cosa: inventalo, va bene? Inventalo. Non ci sono disoccupati nel regno di Dio. Amen? Amen. Alziamoci in piedi. Padre, io voglio benedire ognuno che questa mattina ha preso decisioni nel suo cuore, sostienilo, rafforzalo, Signore, dagli l'amore tuo perché possa essere sempre innamorato di applicare quello che tu chiedi. E Signore, grazie che ci apparteniamo come famiglia e siamo l'uno a fianco dell'altro, un sostegno e un aiuto. E questo è anche il dono tuo per tutti quanti noi. E insieme, Padre, vogliamo benedire te nel nome del nostro Signore Gesù. Amen.